La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле. Adesso che si parla moltissimo del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, si parla anche molto di Garibaldi. Ecco, vorrei parlarne un po' anch'io, perché secondo me è il nostro eroe più grande e originale ed è il più calunniato dalla tradizione e dalla scuola. Io mi ricordo una volta alle elementari, che non avevo studiato, mi interrogano su Garibaldi e l'unica cosa che ho tirato fuori è stato: Garibaldi era una persona molto obbediente, perché l'unica cosa che si viene a sapere poi è che lui ha detto obbedisco, che poi non è assolutamente vero, e per questo magari controllare i libri di Maria Antonietta Maciocchi sull'argomento. Intanto trovo straordinario questo paradosso, che l'eroe nazionale di questo paese di ladri e di furbi era un galantuomo, perché è veramente un uomo che ha dato tutto e non ha preso niente per sé, cioè ha sdegnosamente rifiutato le ricompense, i soldi, e poi anche perché è l'eroe nazionale italiano ed è nato francese, e perché era un tenorino di grazia, e perché è il più antiretorico del Risorgimento ed è il pretesto per la retorica più bieca, perché ha dato l'Italia ai Savoia e i Savoia l'hanno preso a fucilate, e perché nessuno lo voleva tra i piedi. E lui aveva una grande superiorità sugli uomini di allora e di oggi, ovvero Garibaldi poteva essere ingannato da un bambino di 3 anni. E non perché fosse stupido, era intelligentissimo, aveva più immaginazione di tutti e non è mai venuto meno al suo sogno. È stato un rivoluzionario dal primo all'ultimo giorno, perché ribellarsi da giovani è facile, è quasi fisiologico. È nella durata che si vede se uno è un rivoluzionario o non lo è. Ecco, Garibaldi lo era. Vi ricordate quella canzone dei Beatles? Mi amerai quando avrò 64 anni. Non parla soltanto delle rughe, vuol dire se quella luce non sarà spenta. Povero Garibaldi, come ce l'hanno tramandato e come continuano a tramandarcelo. Dopo la morte ne hanno fatto un santo e una mummia. Non è colpa sua. Fatto caso, Garibaldi nei ritratti non ride mai. Nelle immagini, ma anche nei film, negli sceneggiati. Sta sempre serio, come uno stoccafisso. Eppure gli altri volontari sono sempre ingrugnati, come se dovessero stare seri davanti alla storia. Invece Garibaldi era un uomo allegrissimo. Era anche un grande chiacchierone, un grande cantatore, e spesso nella vita se l'è cavata cantando. У парижского спаниеля лик французского короля. Per dire del suo disinteresse per i beni materiali, quando combatte per la libertà del Rio Grande do Sul, amico del grande Bento Gonçalves, questo capataz di questa regione, alla fine, quando si ritira e fa questa vita con Anita, la moglie appena incontrata, alla quale dice: voi dovete essere mia, e infatti sarà subito sua, perché corrono, combattono, lei subito al suo fianco, e in queste battaglie, nelle ultime battaglie, Anita lo insegue già incinta, e nasce il primo figlio Menotti durante una sosta di quella lunga marcia all'interno del paese. Scrive nella bellissima biografia di Garibaldi Indro Montanelli: Bento gli concesse il congedo e gli regalò un migliaio di bovini. Garibaldi ridiscese verso sud, spingendosi avanti con la mandria muggente, che però si assottigliava ogni giorno. Insomma, quando arriva, lui è entusiasta di fare la vita che ha sempre sognato, no? Anita che gli cavalca al fianco, allattando il bambino a cavallo, la sera a bivacco si accendono i fuochi. Aveva sempre sognato questa vita zingara e avventurosa. Soltanto che queste mille capi di bestiame si assottigliano sempre di più e lui nell'entusiasmo non ci fa caso. Quando arriva alla frontiera uruguaiana si rende conto che di quei 1000 capi non è rimasto nulla, sono rimaste 300 pelli, che svende a un prezzo ridicolo. На бульваре распай, как обычно, господин Доминик у руля. Poi passa il tempo, viene a combattere anche in Italia, c'è la ritirata da Roma, Anita muore, la famosa morte nella pineta di Ravenna, che anche con quella ci hanno sfranto veramente alla scuola elementare raccontandocela come un santino. Ed ecco che tempo dopo, quando lui ha già 54 anni, si innamora di una contessina di 19 anni. Lui l'adora, però è molto combattuto, perché lui, che è sempre stato dalla parte del popolo, gli secca a mettersi con una titolata e le scrive: adorabile Giuseppina, io sono combattuto da due sentimenti che mi tribolano, l'amore e il dovere. E il dovere mi vieta d'essere vostro. Unendomi voi, bellissima fanciulla, io rinnegherei quel carattere d'abnegazione che mi frutta parte di una popolarità che io apprezzo e che può valermi a favore della patria. Quando le cose italiane mi chiamino ancora a guidar soldati, e si dirà: Garibaldi, egli ha brigato la fortuna. Finché non resiste a questo amore, le corre incontro a cavallo, e lui, che era uno dei più grandi cavallerizzi del mondo, per l'emozione sbatte il ginocchio e si rompe la rotula. E deve stare quasi un mese malato, ed è il suo sogno, malato, curato da questa deliziosa ragazza. La comparsa della fanciulla amata nella mia stanza, ciò che non avrebbe avuto luogo se sano, mi faceva dimenticare ogni male. Insomma, alla fine si fidanzano e decidono di sposarsi. Si sposano. Quando sta uscendo dalla porta della chiesa con questa, col sogno della sua vita, con questa ragazzina che ha quasi 40 anni meno di lui, qualcuno gli consegna in mano un biglietto e c'è scritto: la sposa è incinta. Era incinta, ma di 8 mesi, lui non se n'era accorto. Un po' i costumi dell'epoca forse favorivano, ma ci vuole veramente una straordinaria ingenuità per cadere in un tranello del genere. Pare, questo lo racconta Montanelli, che è anche un grande romanziere, che lui abbia perso un po' questo suo aplomb, questo era un grande gentiluomo. Accecato dall'ira, brandì una sedia urlando: siete una puttana! E pare che lei gli abbia risposto con un certo sussiego: credevo essermi sacrificata per un eroe, ma non siete altro che un soldato brutale. Comunque lui la lascia sulla porta della chiesa e non si vedranno mai più. Il fatto è che lei era già, era appunto incinta di questo gentiluomo che l'aveva lasciata, e io trovo che questa cristallina ingenuità basterebbe, quella, secondo me, a fare di Garibaldi un eroe. Если есть еще позднее слово, пусть замолвят его обо мне. Insomma, di questa storia, che la sposa era incinta, pare che lo sapessero tutti, meno Garibaldi. Tutti ridono. Vittorio Emanuele, cornuto anche lui, e Cavour, che anche lui aveva avuto una sfortunata storia amorosa in quel periodo, e secondo Montanelli dice: dei quattro padri della patria, tre, nei giorni in cui la patria si faceva, erano impegnatissimi a corbellarsi l'un l'altro per via delle corna. Где уместны, конечно, утраты и отчаяние, даже, но чтобы милосердие в каждом движении и красавица в каждом окне. Qui Capitaneria di Porto, è in linea una certa Maria Sofia che chiede di Barbara Alberti. Pronto? Pronto, Barbara? Sì, ciao. Ciao Barbara, sono Maria Sofia. Dimmi perché mi chiami. Ti ho chiamato perché ti voglio raccontare una storia che, anche se non mi è capitata adesso, molti anni fa, comunque vale la pena raccontarla, perché a suo tempo, quando mi è capitato, mi ha turbato moltissimo. Adesso forse mi fa anche ridere, però mi va di condividerla. Ti va di ascoltarla? Certo, grazie Maria Sofia, sono tutto allora, orecchie, Barbara, ho due padelle al posto delle orecchie, dimmi. Allora Barbara, devi sapere che io sono un'insegnante di lingua, di letteratura straniera, e quindi parecchi anni fa, questo mi è capitato 20 anni fa, ero in classe, facevo la fiduciaria di un istituto superiore, ed era quasi alla fine dell'ora, mi sento bussare alla porta. E entra questo signore, bello, tutto elegante, con un loden, una valigia firmata, e mi chiede, dice: guardi, sono il professor Tardetali e mi hanno mandato qui perché ho avuto delle ore per insegnare presso di voi, mi hanno detto che lei è la fiduciaria e quindi mi dovrebbe dire cosa devo fare. Siccome io stavo spiegando Sartre in quel periodo, Jean-Paul Sartre. Sì, e dico: beh, guardi, sicuramente non posso lasciare la classe, adesso finisco e ne parliamo. Posso aspettare, mi dice lui, mentre lei spiega? Va bene, sì, aspetti. io finisco la mia lezione, usciamo fuori, andiamo nella sala dei professori, dice: ah, io le faccio i complimenti, anzi diamoci del tu, io sono un collega, non ho mai sentito un insegnante avere questo bel rapporto con gli alunni. Dice: sai, io sono il parroco di una parrocchia, adesso non ti dico il nome, lascia perdere. Aveva la gonna o era in clergyman? Era vestito da borghese. Allora dice: sai, io sono il parroco di questa parrocchia, e io uscivo da un periodo tristissimo perché avevo perso un bambino di un mese e mezzo, quindi ero in crisi anche perché questo bambino mi era nato malformato, io non lo volevo, insomma. Quando sentì che lui era il parroco, guarda, ti giuro, mi aprì, gli racconto tutta questa mia crisi, mentre piangevo lui mi accarezzava, però sai, il parroco, io dopo me ne uscì contenta. Allora ci eravamo del tu, dico: guarda, io vengo la settimana prossima, perché leva soltanto 2 ore, e ci rivediamo. E infatti questo viene: ciao, come stai? Dice: senti Maria Sofia, ti volevo dire una cosa, io sono un esperto anche di grafologia, se tu mi scrivi così di botto, senza pensarci, una pagina, io la settimana prossima che vengo ti faccio un esame grafologico. E ti dico: sai, noi donne, a noi queste cose ci piacciono. Ah, che bello, sì, e io subito mi metto, tac, tac, tac, tac, e scrivo, tutta contenta, glielo do. La settimana prossima, mentre sto in classe, mi arriva una busta gialla, me la porto un alunno di quinta. Dice: professoressa, il Don Tizio, non ti voglio dire il nome perché non voglio creare poi problemi, dice, le manda questa busta. Ah, io tutta contenta, la apro, leggo, dice, e c'era prima una raccolta di poesie e poi c'era il responso che aveva fatto. Sei molto introversa, sei brillante, mi diceva, ti piace l'arte, tutte queste cose qua. E poi c'era l'ultima pagina in cui stava scritto: in amore sei passionale, ti piace soprattutto essere accarezzata, ti piacciono i preliminari, ti piace fare questo, non voglio andare poi nello specifico. Ma lui ci andava però? Lui ci andava. Allora io rimango un po' tutta. Dava i dettagli di ciò che secondo lui. I dettagli, andava proprio nell'intimità di scrivere. Però io mi dissi: vabbè, dai Maria Sofia, questo poi in effetti è in questo momento è uno scienziato, non mi devo lasciare, sta facendo il suo mestiere, quindi un medico, uno scienziato, le può dire queste cose. E quindi non volevo accettare forse quello che evidentemente stava scritto. Mi vado a leggere le poesie. Erano tutte poesie d'amore. Sei bella, sei simile alla Madonna di qua, la Madonna. L'ultima poesia dice: ci conosciamo soltanto da 3 settimane e io già ti amo, per pacco. Il popolo vuol dire che questo deficiente, come si dice da noi, ha pigliato asso per bastone. La cosa che mi infuriava non era tanto, perché bene o male potrebbe, ma che era un parroco. Era la delusione. Io mi ero aperta, entrai in classe, gli vado vicino. Oh, lui si alza, dico: no, siediti. Dico: senti, ti volevo dire una cosa, questo è il responso che mi hai dato, va bene, ma queste poesie d'amore sono molto belle. Dico: ma di quale raccolta mariana fanno parte? Allora lui fa, con un fare, sai, tutto ammiccante: no, ma cosa dici? Sono per te. Questo davanti alla classe? Davanti alla classe. Guarda, mi salì il sangue alla testa, non ci vidi più. Dico: per me. Ma come ti sei permesso di fare una cosa del genere? E lui: zitto, zitto, sei in classe, non mi interessa. Dico: i tuoi alunni devono sapere con chi ha a che fare. Sbatto la porta, esco fuori e incontro 2 colleghe che erano del paese suo, dove lui aveva la parrocchia. Allora mi fa Carla, dice: Maria Sofia, ma che ti è successo? Dico: guarda, i numeri, questo... Ma dai, Maria Sofia, mi fa, questo tutti i sabati sera mi chiama che vuole uscire con me. Mi rivolgo all'ascoltatrice che si firma Annina e che mi espone il suo caso. Cara Annina, tu mi scrivi questa lettera e poi mi preghi di rispondere in modo velato ed erudito. Ora, tu mi dovresti spiegare come si fa a rispondere in maniera velata ed erudita a una lettera dove mi racconti nel modo più crudo del tuo rapporto con un cane, del tuo rapporto erotico con un cane. Ora, primo, se leggo la lettera mi cacciano dal faro, eppure dalla radio. Ed è una lettera così circostanziata che secondo me è inventata. Io immagino che tu l'abbia scritta per scandalizzare. Ma se anche fosse vero, io non vedo in quale maniera possa riguardarmi. L'unica risposta che posso darti, scusami, è comica. E perché comicamente avevo trattato l'argomento nella storia di Diego, che è un personaggio ossessivo, geloso, fissato col sesso, che attribuisce alla sua donna ogni sorta di tresca immaginaria, tanto che un giorno arriva a sospettare che la sua Elvira sia dedita ai rapporti bestiali. In questa storia c'è un altro dato grottesco. A un certo punto si scopre che i due protagonisti hanno entrambi 80 anni e si trovano in un mio romanzo, non a caso intitolato Delirio, che uscì con la Mondadori. Allora Delirio, appunto, sospetta di Elvira. C'è qualcosa che non so. La sorveglio. Mi è caduto il paraocchi. E subito ho la conferma. La mattina, di nascosto, esce di casa. E con la rara ispirazione che assale a volte gli amanti, intuisco che cosa sta accadendo. Elvira ha un altro in questa città. Sì, ha un altro. O più d'uno. Entra in un negozio. Sorride un bambino. Carezza il cane d'una vecchia. No, non mi incanti. Questa falsa innocenza cela qualcosa di tremendo. Qualcosa che tu stessa esiti a compiere per la sua enormità. La osservo meglio. No, non è una storia d'amore quella che spinge Elvira per le strade biforcate e angosciose. E una fregola peggiore è l'innominabile prurito della lussuria. Una signora come lei non si umilierebbe mai per amore, ma per la lussuria sì. Quella è il grande comando, l'unico. E lui chi è? Chi sarà? Un critico fallito che, pieno di rancore, incorca le vecchie per finanziare i suoi trattati sempre più intrattabili? O un bracciante del porto? O i neri immigrati dell'Africa? I mori inquietanti che non ridono mai e nelle foreste cannibali si accoppiarono con streghe e caimani? E capirai quanto ci mettono a servire una vecchia fanè. La seguo, la taccheggio, la studio. Prende un tè, canticchia, carezza un cane e quello, come se l'oscena manina lo avesse già vellicato, l'annusa con interesse. Il padrone lo tira al guinzaglio, non si è accorto di niente. Ma io sì. Elvira si gira verso la bestia con una smorfia di lussuria, improvvisamente squarciandomi la verità. Elvira se la fa coi cani. E quali? Le piacerà il Doberman sensuale assassino? Sarà solita stringere al petto le sue quattro zampe nelle notti di plenilunio, quando le donne diventano pazze? Le senza vergogna, quelli che nessuno potrà mai civilizzare, quelli che covano nei loro maledetti ventri la comunione con le cose più oscure della natura. Elvira se la fa coi cani. Ecco dove sarà stata, quando tornerà con aria innocente, dopo l'incontro bestiale. Si siederà sul letto e mi sorriderà. E Dio, come userà ad escarli? Li troverà vicini alle fogne, intenti a contendersi una carogna, e si sdraierà sul greto fangoso mentre la muta le ansima intorno. E per lei si uccidono tra loro mentre urla tutta impiastrata di mota e i cani ridono lugubri lungo il fiume di Diego, che non sa niente delle intese tra i cani e le donne. Io, compatito dai cani rognosi, dai rifiuti della città, dagli spinoni a tre zampe vittime d'ogni traversia della vita. Che Elvira mi preferisca i randagi è davvero più di quanto possa sopportare. No, basta. Tornando in albergo, sono quasi deciso a fare giustizia. E poi quel che sarà, sarà. Le manette, i giornali, il carcere a vita. Ma celebre. Con qualche vedova che mi scrive lettere in tinta di baci. Viene il sole. Il cuore si rischiara. Forse non è così nera come mi parve poc'anzi. Forse Elvira sceglie con cura puntigliosa i cani da sbattere. Forse li sdegna se non sono l'alano elegante o il languido setter. Forse Elvira non va infangando il mio onore col primo bastardo dei sobborghi. Mi gelo. Quello che sembrava il mio riscatto coincide con la mia rovina. Se Elvira spende per il suo vizio, è finita. Queste cose costano. Una schizzinosa come lei, me la immagino, nei bordelli di cani di tutta la regione. A uno palpa le cosce, all'altro controlla la coda e, scadente, dice, fuori i migliori. Non vado a spese. Quella va coi cani e addio canapè. Qui Capitaneria di Porto. Come richiesto, la russista Serena Vitale è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Barbara? Ehi, Serena, buongiorno. Io ho dedicato a Serena Vitale il mio libro su Tolstoi dicendo: a Serena Vitale la mia Russia, perché tu sei proprio per me la Russia. E soprattutto sei l'anti-accademismo e hai questo segno della vera sapienza. Ho scritto in questa postfazione, facendo un tuo ritratto, ho scritto russista e gattara insigne, allieva e libera reincarnazione di Angelo Maria Ripellino e di tutti gli scrittori russi dei quali tratti, riportandoli in vita sul tavolo, piccoli e completi, come i personaggi della commedia nel romanzo teatrale di Mikhail Bulgakov. A ogni riga di questa immensa scrittrice epico-umoristica io devo qualcosa. Grazie. E poi non è di quei russisti che montano la guardia davanti alla letteratura russa la sua sapienza generosa, il che non vuol dire che sei di bocca buona, per carità, però non sei di quelli che credono appunto di essere i guardiani di una disciplina. Per carità, già non farei la guardia comunque a nessuno e a niente al mondo, per cui proprio. Ma senti, come sta Vladi? Vladi sta bene, è tornato dalla sua Praga. Siamo dei frequent flyer, tra un po' ci incontreremo sugli aerei. Raccontiamo chi è Vladi, Vladimir Novak. Dal 2000, è un pittore cieco nel senso di ex Cecoslovacchia, adesso Repubblica Ceca, che io incontrai nel 67 o 68, non mi ricordo più, e fu il mio grande filarino, grande amore. Lui avevano detto che arrivava una ragazza italiana, per cui si era tutto messo bello, come ci si poteva mettere belli a quell'epoca. Cioè, come? Ah, si era messo un vestito nero del fratello, fa conto, che gli andava larghissimo, era un bel ragazzo. E io invece me l'ho messa, erano i tempi di Barbarella, me l'ho messa una parrucca rossa, per cui lui, che si aspettava un'italiana, una mora. Io c'avevo questa parrucca rossa e un abito Barbarella. Il tuo abito Barbarella com'era? E questo abito Barbarella l'avevo comprato a Londra, nella famosa Carnaby Street, è una cosa terrificante, tipo con un nero, con le cose svasate, con i pantaloni svasati e con dei sinistri barbagli metallici, sì, una cosa terrificante. E soprattutto poi questa parrucca tutta boccoloni, io già ho la testa grossa, quindi sembrava una cosa, un mostro. Va bene, amore. E poi lui è venuto a Roma, ha conosciuto Ripellino e Ripellino stesso gli ha detto: dico, dai, resta, dove torni, dove vai dopo i fatti, dopo l'invasione dei carri armati. E cioè, il guaio c'era che Vladi è figlio tuttora della persona che è morta, che era un pezzo grosso del Partito Comunista, cioè dei rapporti con la figura paterna terrificante, che non voleva che studiasse pittura all'Accademia d'Arte. Ad ogni modo, lui a un certo punto, convinto da Ripellino, che aveva subito generosamente preso in mano il telefono, telefonato a tutti i pittori che conosceva, vada, c'è bisogno dei documenti. E allora lui ritorna per Praga, prima è stato ospite a casa mia, poi è andato in un alberghetto vicino a casa mia, al quartiere Nomentano, è andato e lui è un po' così, è valice ancora, e dice: che strano, siamo soltanto due sull'aereo. Dico: l'altro chi era? Il pilota. Ho detto: è una cosa curiosa, e gli sembrava strano, aveva un po' paura, torna e trova l'aeroporto assolutamente vuoto. Aeroporto vuoto, e gli dicono: come cittadino, non sa che nel frattempo abbiamo chiuso le frontiere? E quindi, chiuse le frontiere, qualche tentativo di telefonarmi, qualche tentativo mio quando tornavo a Praga, se non che quando tornavo a Praga io avevo sempre uno strascico terrificante di polizia segreta. Sono stato salvato una volta da un cameriere che mi ha detto: i bagagli sono pronti, signora. Dico: io non devo partire, i bagagli sono pronti. Mi dice: c'è da fare. E quindi ci siamo completamente persi di vista, lui mi ha cercato tramite l'ambasciata, ma niente, ognuno ha seguito la sua vita. Un bel giorno sognavo di scrivere un libro sull'emigrazione russa e il Clementinum di Praga, che oltre ad avere gli scalini più alti del mondo, questo palazzo dei gesuiti, per cui lo odio, ma ha una delle biblioteche, ha un archivio stupendo sull'emigrazione russa a Praga, a Parigi, così. Sono andata a Praga e ho detto: adesso quasi quasi io gli telefono, sto ragazzo che dov'è? Telefono, tenendo presente che Nova, che è un nome tipo Rossi o Verdi, ce n'era 20 pagine, ho messo il dito, ho detto: provo con questo, ho provato e ho detto: buongiorno, cerco un signore che si chiama Novak e dovrebbe essere adesso, non so, pittore, designer. Sono io, Serena, sono io, sono nonno, ma sono libero, sono vedovo. Questo in che anno? Questo era il 1999, abbiamo compiuto 10 anni di matrimonio. Poi ho detto, ma cosa fai? Ho detto, sono venuta a studiare agli archivi. Ora, se uno sa cosa sono gli archivi, uno si mette da tuta, si diventa tutta grigia, così. E ho detto, va bene, Vladi, magari ci andiamo a prendere una pizza insieme un giorno, così. E io ero lì stesa per terra, coperta di polvere, plurida, puzzolente, che cercavo una cosa. Arriva un signore vestito ancora quasi come suo fratello, con un mazzo di garofani di rose. Ah! E tutte le signorine degli archivi che piangevano. E poi tutti, poi la sera siamo andati a cena e 30 anni passati qua, se ne sono andati in... Ognuno aveva avuto la sua vita, le sue storie, le sue cose dolorose. Ci siamo guardati e ci siamo messi a piangere. Poi siamo andati a vedere la Moldava e insomma sembrava un film che se io fossi Julia Roberts e lui Grant sarebbe stato una cosa, un iper successo. È molto raro che un amore si realizzi 40 anni dopo, devo dire, in maniera così, così buffa, sai, e così fortunata. Ma se fonda le sue, perché io ricordo mia mamma che ha detto questo è l'unico che c'ha il carattere buono per sopportarti. E in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. È strano come da innamorati si possa diventare a poco nemici, covando dei rancori tremendi. Dopo anni di matrimonio andrebbe tutto bene, fuorché un particolare. Mio marito non mi fa più le coccole. Qualche bacio, ma sempre quando facciamo l'amore. A letto la situazione non è brillante, ma di quello non mi sento di rimproverarlo, perché forse è anche colpa mia, che di natura sono un po' fredda. Ma in compenso mi piacciono le carezze, le parole dolci, e se ci fosse questo, mi accontenterei di tutto il resto. Lui è un buon marito, buon padre, ma io ho cominciato a detestarlo in segreto e sento quasi un desiderio di violenza fisica nei suoi riguardi. E quando se ne sta tranquillo davanti alla TV o a leggere un libro e non capisce che io vorrei invece un abbraccio, vorrei prenderlo a schiaffi, strappargli i capelli, fargli male per quanto lui ne fa a me col suo atteggiamento. Sento che se continua così, un giorno o l'altro, non ce la faccio più e lo picchio. Gli vuoi tanto bene? Sei così dolce, così affettuosa, così bisognosa di carezze, che sogni soltanto di caricarlo di botte, di gonfiargli la faccia e di spaccargli i denti. Quanta violenza si nasconde spesso dietro questa voglia di coccole, a parte la parola. Io la detesto, perché è leziosa, perché ha una bruttezza frivola che denuncia già la falsità del gesto. Bacio, carezze, quel che vuoi. Coccole, ma che vuol dire? Ma cosa siamo, dei peluche? Baci e carezze sono altro, sono impulsi spontanei. E ci sono persone intimamente affettuosissime, ne conosco tante, e forse anche tuo marito, che però sono riservate. Io no, io per esempio sono canina nelle mie manifestazioni di affetto, tocco, bacio, però c'è chi non è così e ama forse più profondamente di chi si sbraccia. E invece di convertire tuo marito, cominciando, non so, a fargli tu una carezza, ti immagini di sfigurarlo. Questo si chiama odio, Rosaria. Tu non hai capito bene cosa provi per tuo marito. Ti dici delle bugie a tuo vantaggio. Pensi di essere la vittima? E con questa scusa covi la vendetta. Ma se tu per mancanza di carezze sogni di bastonarlo, che dovrebbe fare lui a te, che gli rifiuti il sesso? E perché devi pretendere che un uomo sessualmente tradito nelle sue aspettative da una moglie frigida poi si sdilinquisca in manifestazioni d'affetto? Che vuoi da lui? Tu vuoi un rapporto adolescenziale, fatto solo di baci. Io ti capisco. Anche a me sono sempre piaciuti soprattutto i baci. Però è una forma di perversione. Rinunciare al sesso per le carezze può essere un'ottima cosa, una inebriante cosa, però bisogna sceglierlo in due. Dopo aver letto la tua lettera, sono andata a rispolverare un articolo di cronaca di qualche anno fa, che avevo messo da parte e che somiglia moltissimo alla tua storia. Te lo cito perché tu capisca dove si può arrivare. Allora, nella quieta Guidonia vivevano due quieti coniugi, lui 73 anni e lei 71. Rispetto a casa tua, la situazione era invertita. Lì era il marito, assetato di affettuosità evidenti, mentre la signora, sua moglie, era piuttosto restia. Cosa fa un giorno quel marito che ha tanto bisogno di coccole? Prende un coltello e si butta addosso alla moglie. Che sentimentale! La moglie corre in strada e riesce a salvarsi, almeno la pelle, e quando lui viene interrogato dai carabinieri, ha questa faccia tosta di fare la vittima. Capirete, lei non mi faceva mai una carezza. La signora non è morta. Però forse Avrà imparato a essere più espansiva? Sarà più facile ora per lei carezzare un marito che per poco non l'ha ammazzata? Io non credo a queste ragioni, Rosaria. Non credo al tuo bisogno di affetto. Tu sei stufa. E magari avrai anche ragione. Però hai torto a inventarti dei motivi patetici e disonesti e mascherare la tua voglia di prenderlo a cazzotti come il risarcimento dei baci non dati. Almeno lui è indifferente. Ma tu lo guardi con uno sguardo da killer. Ecco, io ho capito... Ho capito cos'era l'amore, come si potesse descrivere l'amore quando ho letto questa poesia di un seicentista, di un poeta del Seicento che si chiama Giovan Battista Narducci e che si intitola Elogio ai pidocchi dell'amata. Non fate i pigri, è un linguaggio del Seicento, però è molto comprensibile. L'unica cosa da spiegare è che fere vuol dire fiere, ma per il resto è molto molto comprensibile. Ed è un sonetto sull'amore. Elogio dei pidocchi dell'amata. Sembran fere d'avorio in bosco d'oro, le fere erranti onde si ricca siete, anzi, gemme son pur che voi scotete dall'aureo del bel crin natio tesoro. Oppure, intenti a nobile lavoro, così cangiati gli amoretti avete, perché tessano al cor la bella rete con l'aure fila ond'io beato moro. O fra bei rami d'or volanti amori, gemme nate d'un crin fra l'onde aurate, fere pasciute di nettarei umori. De, s'avete di sio d'eterni onori, esser preda talor non disdegnate di questa preda, onde son preda i cori. Ovvero, se lei vi acciacca, non vi offendete. Qui Capitaneria di Porto. Come richiesto, l'antropologa e giornalista Genevieve Macaping è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Pronto, Jenny? Pronto. Chi è Jenny? Chi è Jenny per me? Io non dimenticherò mai il nostro primo incontro. In un albergo calabrese vicino a Scalea, che si chiamava San Michele. San Michele, a Cetraro. Entro... E mai ti saresti aspettata di trovare una piccola negra, aggiungiamo pure bella, che aveva letto i tuoi libri. Piccola no, devo dire, una statua. Va bene, una bellona tutta nera, va. Ecco, insomma, definisci... E tu tra le prime cose mi hai detto, basta, chiamatemi negra. Sì, io non ne posso più questo... Donna di colore. Donna di colore, quello che volete. E se ti chiamassi, io ti dissi, senti Barbara, e se io ti chiamasse donna senza colore, come ti sentiresti? Sì, oppure invece che appunto invece che extracomunitaria, comunitaria, no? Sì, ecco, sì, una sì, signora sì, comunitaria. Extracomunitaria, mica solo voi avete una comunità, cioè sta cosa di escludere sempre gli altri, cioè ma parlate per affermare voi stessi, non per escludere me. E quindi già questo inizio, e poi non mi hai mai deluso perché hai sempre seguito le tue idee, i tuoi sogni. Sempre dal margine, perché dal margine la visuale è a 360 gradi, non dal centro, dal centro. Coloro che stanno al centro, Barbara, che credono di essere anche forti, potenti, non lo sono, perché la loro visuale è un raggio. Cioè, prova a tracciare un circolo, mettiti al mezzo, proprio nel mezzo. Quello che riesci a vedere è una porzione, è un raggio. Invece poniti al margine, tu vedi tutto il cerchio. Senti, io apprezzai molto il tuo libro pubblicato con Rubettino che si chiamava Traiettorie di sguardi, dove raccontavi la tua storia, parlavi anche molto di questo razzismo degli italiani. E, però mi piacerebbe che tu raccontassi l'episodio proprio della tua partenza dal Camerun. Sì, ma quando parto dal Camerun è perché io incontro un uomo a distanza di 33 anni adesso e mi chiedo con un moto di onestà intellettuale se scappai via con lui per amore o per miraggio di benessere. Con onestà intellettuale io non so se allora fosse amore, ma certamente scappavo dalla povertà, certamente, e poi lui era bianco, aveva questi occhi azzurri, blu, e passavo intere giornate, ma giornate proprio a guardarlo, anche quando si camminava, no? E finché un giorno non ce l'ho più fatta. Secondo me anche a lui era il dubbio venne, perché io gli chiesi, ma scusami Marcel, ma tu vedi il mondo blu? E guarda, veramente gli si scrollarono tutte le braccia, le gambe, perché forse aveva pensato che io lo guardassi in quel modo da innamorata, no? Invece da scienziata. Sì, perché io proprio guardavo le pupille, gli occhi, cercando proprio di penetrare, di entrare dentro, no? E alla fine non ce l'ho fatta, gliel'ho chiesto, ma tu vedi il mondo blu? E lui che ti ha risposto? E lui, ovviamente passata la sua delusione, però uomo molto intelligente, mi disse: Bichette, ma tu vedi il mondo nero? Era il primo bianco che vedevi? No, non era il primo bianco, per fortuna. Poi Marcel francese, bretone, di Finisterre. E vedo un po' che coincidenza. E Marcel visse nell'albergo, in un albergo di mio zio, che poi era Pertacala, l'uomo che avrebbe dato il mio nome, un anziano africano, il capo della famiglia, della nostra intera etnia, tribù, ora senza sa discutere su questi concetti. E Marcel, che conosceva abbastanza bene l'Africa, andò direttamente da Pertacala a dire: io voglio sposare tua figlia. E fu uno scandalo, perché io avevo molti altri pretendenti, ricchi, nobili, come quelli della mia famiglia, e niente, Pertacala ci diede il suo consenso, ma il resto della famiglia si schierò, Pertacala passò in minoranza e fummo costretti a scappare. A fuggire, io e Marcel. Abbiamo mollato tutto, siamo scappati, però ricordo che nella mia borsa avevo messo un paio di scarpe bellissime e un abito fantastico, perché sarei dovuto arrivare in Europa vestita da signora, perché sa, nel paese dei bianchi non si arriva vestiti di stracci africani, quindi nella mia borsa avevo questo, senza immaginare che saremmo stati fuggitivi per tutta l'Africa. Immaginate, siamo partiti dal Camerun, siamo andati nel Congo, poi dall'Est, dalla Repubblica Centroafricana, siamo spostati nel Chad, dal Chad Camerun attraversare, poi Nigeria, poi Niger, poi Algeria, tutto il deserto del Sahara abbiamo attraversato, e lui era il mio lascia passare, perché lui era in bianco e io ero minorenne, tra l'altro ricercata, io ho ricercato lui nel mio paese. Per fortuna sua non lo hanno beccato, lo avrebbero fatto arrosto, perché aveva sequestrato una minorenne, aveva rapito, capito? Per lo più di una famiglia nobilissima. Quanti anni avevi? Io avevo 19 anni, anzi 19, sì, 19 anni neanche compiuti da poco, se tiene conto che la maggiore età nel Camerun credo tuttora è 21 anni. Invece siete riusciti a raggiungere... Sì, siamo riusciti a scappare, perché mentre tutti quanti ci cercavano a nord, perché se fuggi dal Camerun vuoi venire in Europa, punti direttamente verso la Nigeria, noi invece, molto furbi, abbiamo puntato verso sud, siamo andati verso la Repubblica Centroafricana, quindi nessuno avrebbe mai ipotizzato di cercarci nella Repubblica Centroafricana, mentre in Nigeria, nei paesi nordici ci cercavano, noi invece ci eravamo rintanati nelle foreste del sud ad amarci, ed io contenta, io che vedevo il mondo attraverso i suoi occhi, e poi dovevo abituarmi a molte cose che mi facevano anche un po' senso, per esempio baciarsi, no? Come fanno qui in Europa, oramai nel mondo, due che si baciano sulla lingua. Perché non, perché in Camerun non si usava questo? Ma no, ma che scherziamo, due che si baciano, si succhiano la lingua, la saliva a vicenda. Cioè, viene considerato un atto schifoso? Ma è schifosissimo, sì, oddio, adesso... Non più dell'atto sessuale. Per intercultura sono abituata, cioè lo trovo normale farlo. No, con lui ho appreso moltissime cose, come si bacia, come si fa l'amore non solo per procreare, insomma lui è stato per me un grande maestro, oltre che il bastone di cammino per attraversare il deserto, finché in mezzo, in pieno deserto mi sono stufata, perché in questo primo mondo non si arrivava mai, allora mi sono impuntata e ho detto che volevo tornare a casa, quindi... e lui a correre dietro di me, a supplicarmi, e poi siamo arrivati in Europa, siamo arrivati. E poi, una volta in Europa, arrivati in Francia, la sua famiglia non mi voleva perché, insomma, non si aspettava una negra in casa. D'altronde neanche la mia lo voleva, perché una nobile con bianco, tutto bianco così, che se ne faceva. E niente, poi mentre stavamo preparando tutti i documenti per sposarci, Marcele è venuto a mancare, è morto in un rogo nel camper dove stavamo, dalla mozzicone di una sigaretta, ecco. Qui capitaneria di porto, interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti. A cura di Gloria Guerrera.